giornalista, sì. Signor Franco Bianco, giornalista, sì, sì, sì. Allora Gandhi era un terrorista, del Franco Bianco, giornalista, sì. Allora Gandhi era un terrorista, del Franco Bianco, giornalista, sì. Ti voglio bene Carlo Azeglio, sì. Ti voglio bene Carlo Azeglio, e sì, e sì, e sì. Se stavi zitto però era meglio, ti voglio bene Carlo Azeglio, sì. Se stavi zitto però era meglio, ti voglio bene Carlo Azeglio, sì. E Ciampi forse sei in errore, sì. E Ciampi forse sei in errore, sì, e sì, e sì. Non siamo figli di un dio minore, e Ciampi forse sei in errore, sì. Non siamo figli di un dio minore, e Ciampi forse sei in errore, sì. E dovresti star sopra le parti, sì. E dovresti star sopra le parti, e sì, e sì, e sì. Noi dell'Italia no, non siamo gli scarti, dovresti star sopra le parti, sì. Noi dell'Italia no, non siamo gli scarti, dovresti star sopra le parti, sì. Un consiglio ti vogliamo dare, sì. Un consiglio ti vogliamo dare, sì, e sì, e sì. Documentarti prima di parlare, consiglio ti vogliamo dare, sì. Documentarti prima di parlare, consiglio ti vogliamo dare, sì. Decorare lo scagno lo vogliamo, sì. Decorare lo scagno lo vogliamo, e sì, e sì, e sì. Lui non ci copre di amianto uranio, Pecoraro Scagno lo vogliamo, sì. Lui non ci copre di amianto.